Il test attitudinale di quest'oggi riguardava una particolarità legata al nome Nirvana. Tra le ipotesi proposte, era forse vero che ben due band precedenti ai Nirvana si chiamavano Nirvana e i Nirvana dovettero pagare una penale? Ebbene sì, no! Allargate l'area della vostra consapevolezza e della vostra cultura. Ebbene sì, negli Stati Uniti ci sono stati due gruppi precedenti a quello famoso, celeberrimo di Kurt Cobain, i Nirvana ultimi. Ecco, ce ne sono stati due, uno negli anni 60 addirittura. Queste le conoscevo, non conoscevo quello degli anni 80 di Christian Rock. Di Christian Rock, esatto. Ci informeremo. E sono stati entrambi indennizzati dai Nirvana famosi. Chissà, per aver utilizzato con bricioline sicuramente. Quindi mi tranquillizza che non furono mai citati in giudizio da un sacerdote induista per l'utilizzo di Seattle, no, di Nirvana, no. E nemmeno che Dave Grohl usava uno shampoo che si chiamava Nirvana. Chi lo sa, no. Noi pensiamo di no. Pensiamo di no, era inventata. Era inventata. Bene. Dunque ha pochissime probabilità di essere vera. Perfetto. L'avrei azzeccata. Benissimo. Lo so che lei è informato, DJ. Speriamo che là fuori i nostri ascoltatori, le nostre radioascoltatrici abbiano fatto altrettanto. Thank you. pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't. Che viaggio, Hotel California, Eagles all'alba delle 8 e 37 minuti primi nella diretta di Pane, Burro e Rock and Roll, puntata 03. Ci sono svariate piague che affliggono la nostra società, una di queste è sicuramente il ritardo. Quanto riguarda il ritardo nel ciclo, non sappiamo ancora esattamente come comportarci. Noi di Pane, Burro e Rock and Roll, invece, per quanto riguarda il ritardo, nell'altro senso, nel senso di arrivare in ritardo in ufficio, a scuola, al lavoro, dove state andando, abbiamo una rubrica apposta che si chiama Ritardatario Ritardato. Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Buongiorno direttore, mi perdoni, mi devo scusare perché mi è successo una cosa incresciosa. Io ho tentato di essere puntuale stamattina, ma avevo i finestrini della macchina bloccati dal ghiaccio e ho provato a testarli con la lingua e sono rimasto attaccato un quarto d'ora con la lingua al finestrino. E poi mi è venuta un'idea che sul momento mi è sembrata geniale, liberare i finestrini con l'alcol, ma non avevo l'alcol e ho usato la benzina e insomma ho dato fuoco alla macchina e al garage. E sono un po' tuttora confuso per i fumi della benzina e dell'alcol. Inoltre i pompieri mi hanno sparato in faccia il getto d'acqua ghiacciata. Vado un attimo in bagno. Il ritardatario ritardato. Non dimenticate, una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. Credo che adesso sverrò, direttore. Mi perdoni, sono svenuto. Hello, I love you. Buona giornata da Rock FM, vi amiamo. Parafrasando le porte della percezione, The Doors, 8 e 41 minuti primi, quindi ancora una diciannovina di minuti scarsi nella nostra diretta prima di cedere il passo al buon Garavelli. Ho più volte ricordato il nostro 335-100-7777, la linea di contatto preferita per noi di Pane, Burro e Rock and Roll per interagire con voi. Tenterò di salutarvi un po' tutti, un abbraccio a Cria, a Enrico, che si chiedeva se valgono, per quanto riguarda i punti da accumulare per la patente davvero rocker, se valgono anche quelli accumulati con le repliche estive. Beh, direi di sì. Lui è a 100. Buona. Gian 75 da Zena, Roby da Genova, un amico milanese, David da Firenze, il rinnegatore, Joe, Marco, e ancora scorro su saluti da Volterra, Pisa, anche lì si vede la Corsica, il gruppo Fatti Duri Cortina capitanato da Filippo, Black, Leo da Genova, William, Marco da Cinisello Balsamo, un altro Marco, insomma in tanti anche quest'oggi a tenerci compagnia via SMS, sempre un piacere anche tentare di salutarvi tutti quanti. Non ho mai ricordato la casella di posta elettronica, che in realtà è ariel@radiorockfm.com, dove vado invece a salutare Davide. Ricordo tra le varie segnalazioni che dal reprise di Pane, Burro e Rock and Roll, queste prime tre puntate, è possibile riascoltare la puntata andata in onda, non dico in tempo reale, qualche minuto dopo il termine della nostra diretta, grazie al sito internet www.radiorockfm.com. nella sezione archivio, tra un'oretta troverete la puntata di quest'oggi nel caso voi vi siate persi qualche parte fondamentale del programma. Mentre se siete sintonizzati, gustiamoci insieme questa Another Brick in the Wall, ovviamente Pink Floyd. Thank you. sono delle radio che interagiscono con i loro radioascoltatori e le radioascoltatrici con gli SMS, freak. Ma lo fanno tutti. Con le mail. Ma lo fanno tutti. È più che risaputo, oramai scontato, banale. Chi interagisce con i loro radioascoltatori, grazie alla cartolina postale, solo noi di Pane, Burro e Rock and Roll. E diciamole queste cose ogni tanto. Anche quest'oggi le va di viaggiare un po', freak, con due delle tante cartoline ricevute? La risposta dispettosa sarebbe assolutamente no. In realtà sono veramente curioso. Non si può resistere all'affetto che ci si è catapultato contro grazie alle vostre cartoline. Vi abbiamo ricordato che tenteremo di leggerle tutte e le abbiamo suddivise in casistiche. Oggi affrontiamo la casistica estero. Gli amici e le amiche che se ne sono andati al di là della Svizzera. Sì. Insomma, hanno varcato il confine delle Alpi. Ma è sicuro, Ariele, che potremo soddisfare il progetto, potremo portarlo a termine. Quale? Perché sono veramente tante cartoline dall'estero. Abbiamo tanto di quel tempo a nostra disposizione che potremmo permettercelo. Bene. Questa da dove viene? Andiamo in Portugal! A Sintra. Lei sapeva che esisteva Sintra? Naturalmente. Io no. Serra de Sintra. Sintra dentro. Poi immaginavo. Andiamo, vediamo di scoprire le firme. Beh, Alessia sicuramente. Stefano, no. No. Alfonso, Momio direi, non saprei. Comunque grazie Alessia e chi era con te in Portogallo per il nostro viaggio di nozze. Il rock and roll ha invaso ancora di più il Portogallo. Post scriptum, la cartolina non muore mai. In viaggio di nozze. Che carini, forse maschio. Anche Mauro. Alessia, hai un marito che non firma benissimo. Sappilo. Beh, sì, insomma. Ma grazie. Forse. Il loro deve essere stato sicuramente un bel viaggio, non meraviglioso, invece quello di un altro radioascoltatore che ci scrive Luca. Eccolo qui, la seconda cartolina di quest'oggi. Arriva dalla Grecia, presumo, visto il francobollo. E la cartolina descrive l'interno di una sala da crociera, decisamente sul kitsch andante. Sul kitsch profondo, direi. Sembra una nave di Kinga. Si sprofonda nel kitsch. Oro, ottone dappertutto, divani che nemmeno nel 72 li avevano mai grande fatti così sfarzo. Grandi. E il buon Luca però ci descrive anche l'angosciante nave da crociera che ci spedisce via cartolina, ovvero discoteca anni 70, karaoke con vecchi Yankees che cantano New York, New York. Oppure giovani inglesi che gridano pezzi di Britney Spears, ballerini travestiti da ABBA o Village People. Non è un incubo, è il viaggio del nostro Luca, improbabili musicisti tradizionali greci e noiosi quartetti d'archi coreani. Gruppo reggae piano bar, in tutto questo il vostro ascoltatore Luca, seduto dove indicato dalla freccia, a sognare di far saltare orecchie, vetri e finti scudi vichinghi con un amplificatore a manetta e le note di Ace of Spades. Luca, bentornato allora da questa tragica crociera in Grecia. Complimenti, resisti comunque. È stata un'esperienza. Lei avrebbe resistito a cantare New York, New York in una sala da crociera così? Come si fa a dirlo? Mi sarei impegnato, ce l'avrei messa tutta, ma probabilmente non ce l'avrei fatta. I wanna be a part of it, New York, New York. Come sono andato? Molto bene. Grazie, un'ottima audizione. Highway Star Deep Purple, è con loro che chiudiamo la diretta di quest'oggi. 2:20 alle 9 spaccate. Aia, questa è la fine. Miei cari amici, è finito. Pane, burro e rock and roll. Appuntamenti per il weekend con i miei DJ set. segnalerei, è inquietante Spadino questa chiusura, segnalerei venerdì sera all'Ippodromo a Firenze con Max De Rieu e sabato sera invece solo soletto qui a Milano all'Atomic Bar, passate a trovarmi, vi farò roccheggiare duro. Da The End dei Doors passerei alla sigla, un po' più allegri, si chiude un po' più allegri così, quel The End lì mi butta giù il mood, capito? Ho capito che sono i Doors, però ci pensiamo. Pane, burro e rock and roll. Ritornerà domani, puntuale alle 7. La tua colazione rock. Quella che sarà, volendo, la quarta puntata. Pane, burro e rock and roll. Termina la terza puntata che tra poco potrete ascoltare su RadioRockFM.com. E via! Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ogni giorno dalle 6 alle 7 Early Bird Special, dalle 7 alle 9 Pane, Burro e Rock and Roll e dalle 9 al mezzodì Marco Gravelli. Eccomi, ci buongiorno. Sono oggi. Buongiorno a te. Tutto preciso oggi? Sì, sì, tutto nella norma. Hai visto che ventaccio che c'è? Vento forte. Un sacco di gente mi segnala che si vede la Corsica, ma io mi sono affacciato, mica la vedo. Eh beh, da dove ci scriveva quella gente? Non so, da dove sentono Rock FM. Dici che era da qualche altra parte. Da qualche altra città, suppongo. Ma mi piacerebbe un sacco andare su in cima al palazzo. Tu non hai amicizie, secondo me oggi si vede veramente un botto di roba. Vedrai la Madonnina. Esatto, cosa faccio? Citofono a quello dell'ultimo piano e gli chiedo se posso andare su? Mi sa che si può andare indipendentemente. Mamma, allora mi informo. Gravelli, buona giornata anche a voi. Grazie. Ci si risente domani alle 9, precisi. Ciao.